il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Sono molti i modi in cui, possiamo dire anche da secoli, la tecnologia viene in aiuto all'agricoltura. La scienza apre da sempre nuove possibilità, la scienza e la ricerca, fino a poco tempo fa anche impensabili. Uno per tutti, ad esempio, in agricoltura oggi si utilizzano anche i droni, nati forse più per impiego in altri settori come quello militare, ma oggi utilizzati con profitto anche in agricoltura. Ne avevamo parlato qualche tempo fa di questa che si chiama agricoltura di precisione. Oggi vogliamo ritornare sull'argomento e lo facciamo con Francesco Marinello, ricercatore di meccanica agraria presso il TESAF, il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali della Scuola di Agraria di Legnaro dell'Università di Padova. Benvenuto Francesco. Ciao, grazie dell'invito. Ecco, ha citato non a caso i droni perché è una cosa curiosa e so che è una cosa su cui tu hai dedicato un po' di tempo, state dedicando come TESAF un po' di tempo in questo periodo. Cosa sì, sono e che cosa servono per l'agricoltura? Esattamente, i droni, il nome esatto dei droni sarebbe sistema aeromobile a pilotaggio remoto. Sono proprio delle piattaforme volanti piccole, quelle che troviamo qua nel nostro territorio, quindi vanno da pochi etti fino a droni più impegnativi di 3, 4, 5 kg, che sono in grado di portare a altezze variabili, diciamo dai 10 ai 100 metri tipicamente, degli oggetti di peso variabile, oggetti che possono essere dei sensori, quindi sensori che possono fare rilevamenti dall'alto e quindi vedere aree molto ampie, o che possono portare anche dei prodotti. Ecco, sono questi due i due utilizzi principali che sono visti per il futuro dell'agricoltura: rilevare dati o fare delle operazioni. Ecco, che tipo di dati potrebbero essere interessanti da rilevare con questi sistemi? C'è già un'esperienza in altri ambiti per quelli che sono rilevamenti della qualità dell'aria, ad esempio per scopi ambientali, quindi per vedere l'inquinamento delle nostre città. E sensori simili possono essere messi per fare analisi in ambito agricolo, quindi fare analisi con sensori di tipo ottico o di tipo chimico, che sono in grado di vedere proprietà dal suolo e dalla vegetazione. Le proprietà che possiamo rilevare riguardano molto spesso la quantità di verde, oppure la quantità del rosso, oppure, uscendo dallo spettro del visibile, la quantità di infrarosso. Sono informazioni importanti perché sono informazioni legate alla temperatura e allo stato di vegetazione, quindi vedere i livelli di verde, i livelli di rosso, infrarosso, ci dice quanto la vegetazione sta bene, quindi qual è l'attività fotosintetica da una parte. Sull'infrarosso, sulla temperatura, il fatto di vedere temperature alte, quindi segnali infrarossi alti, ci dice quanto è stressata la vegetazione, quanto sta soffrendo per una carenza idrica, piuttosto che ad esempio per una qualche malattia o per qualche infestante che sta facendo soffrire la vegetazione. Dati che ci dicono localmente quanto bene sta la nostra cultura. E quindi far capire all'agricoltore se è il caso che intervenga magari con irrigazione o magari con prodotti, insomma, che possono servire per esatto, le malattie. O... Esattamente, ovviamente l'agricoltore lo sa già di base queste cose, vede già a occhio nudo la vegetazione quando sta bene o quando sta male. Il fatto di avere una piattaforma volante che è in grado di sorvolare diverse ettari di appezzamenti, di terreni, consente di vedere in modo molto più rapido queste informazioni, molto più quindi permettere operazioni in modo più tempestivo, e anche di fare operazioni solo dove serve, quindi riconoscere esattamente quale area è sofferente, quale area è soggetta a qualche tipo di patologia, di infestante, eccetera, e quindi concentrare le azioni solo in quell'area, che è quello che introducevi tu come agricoltura di precisione. Quindi concentrando l'intervento, riducendo i prodotti, riducendo anche il tempo necessario per gli interventi e anche riducendo i consumi. Qui si parla quindi di grandi estensioni agricole oppure anche agricoltori di piccole dimensioni? Sappiamo che in Italia e anche nel Veneto le dimensioni dei campi, insomma dei poderi, sono abbastanza contenute. Ovviamente chi ne trae maggiori benefici sono quelle aziende che hanno una dimensione maggiore, però ci sono applicazioni di droni anche molto interessanti anche per le aziende più piccole. Ovviamente possiamo considerare che aziende più piccole possono unirsi in consorzi e quindi o in cooperative, per cui fare azioni di gruppo, però anche per la piccola azienda c'è un interesse nell'utilizzo dei droni e è un'applicazione più recente che è l'applicazione dei droni per la lotta biologica. Ecco che quindi il drone diventa un mezzo che arriva sopra la vegetazione, quindi senza l'intervento di trattori o di altre macchine, e rilascia dei parassitoidi che vanno a fare lotta biologica contro parassiti che possono essere infestanti per la mia cultura. E sappiamo quindi, anche che meno passano le macchine nei campi, meglio è assolutamente per il terreno. Minore stress ovviamente per il terreno, che viene compattato in maniera più ridotta ovviamente, e anche minore stress per la vegetazione. Ovviamente entrare con la cultura in atto o in emergenza oppure in piena vegetazione con macchine da diversi quintali e con pneumatici che vanno a calpestare la vegetazione ovviamente crea danni e perdite di prodotto. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio: consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Quasi quasi prendo questo libro, poi lo leggo fino in fondo, che lui viaggia sempre in me. Rinasco mentre scrivo tutto quel che vedo nel mio mondo e non penso a te. Stricare il mio profondo rido alimentando l'anima e luce sia con me. Respiro ansimando, sussultando, poi privandoti dell'aria che c'è in te. Il mondo non torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Francesco Marinello, ricercatore di meccanica agraria presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali TESAF della Scuola di Agraria dell'Università di Padova. Abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione dei droni, un argomento interessante su quale vorremmo soffermarci ancora, però voi vi occupate anche di altre ricerche, per esempio anche sulle applicazioni per gli smartphone, sempre con l'utilizzo in ambito agricolo. Esattamente, abbiamo chiuso un concorso proprio poche settimane fa, chiamato Apertamente 2015, in cui abbiamo invitato tutti gli studenti del campus universitario a fare le loro proposte per quanto riguarda delle applicazioni che possono essere di supporto alle attività normalmente condotte giornalmente dagli agricoltori o dagli allevatori. Questa non è una cosa nuova, ci sono già molte applicazioni infatti che aiutano o danno un supporto agli imprenditori agricoli. Pensiamo che un moderno smartphone ha al suo interno sensori di temperatura, sensori di pressione, telecamere, ha ancora accelerometri, quindi ha tutta una serie di sensori che possono dare una quantità di informazioni notevoli. Ci sono già sul mercato molte app che ad esempio aiutano a registrare giorno dopo giorno l'andamento, la crescita o il livello di alimentazione degli animali, piuttosto altre app che con il solo uso della fotocamera del telefono riescono a riconoscere il livello di verde della foglia e vedere una sua carenza, ad esempio carenza di azoto piuttosto che di altre sostanze. Ci sono anche altre applicazioni che permettono di vedere il livello di stress che agisce sull'operatore contando la quantità di vibrazioni, o ancora applicazioni che si attaccano a dispositivi esterni e vedono l'umidità del suolo piuttosto che il livello di insolazione, il livello di irraggiamento. Senti, ma con tutte queste informazioni ci serve una laurea per occuparsi, per fare agricoltura, se si vuole fare... Una laurea decisamente no, serve uno spirito di adattamento alle nuove tecnologie. Ormai internet o il computer o i telefoni, insomma, sembrano tecnologie acquisite, in realtà molto spesso possono essere difficili a chi non è abituato a usarle per lavoro e li usa solo per svago, solo per giocare oppure solo per comunicare. Ecco, il salto da fare è un salto di mentalità, quindi di vederli come strumenti di agevolazione del lavoro, e devo dire che già molte aziende lo stanno facendo. Ci sono imprenditori agricoli che controllano tutta la loro azienda dal loro telefono. Questo ovviamente non riduce l'importanza che ha l'imprenditore agricolo, ma ne ottimizza il tempo, ne ottimizza gli spostamenti, ne ottimizza la capacità di analisi, e quindi dà più tempo all'imprenditore per dedicarsi alle varie attività che comunque sono sempre necessarie nelle aziende. Sì. Strumenti, diciamo, che i droni, come le applicazioni, che sono in grado di ridurre i tempi e ottimizzare le attività. Ecco, volevo solo chiederti in chiusura se c'è qualche sito internet o qualche manifestazione nel quale si può avere informazioni su tutto questo, per chi volesse approfondire. Noi costantemente facciamo divulgazione su giornali, sulle riviste del settore agricolo, e vi lascio solo un appuntamento che sarà inaugurata sabato una mostra a Verona sulla nuova digitalizzazione dei dati, insomma si chiama Dalla Carta al DIT, e parliamo anche là di droni, parliamo anche là di nuove tecnologie a supporto dei cittadini, non solo degli agricoltori, per migliorare il livello di conoscenza sul territorio. Benissimo, grazie. Grazie a voi e grazie dell'invito alla vostra trasmissione. Appuntamento quindi per chi vuole saperne di più di agricoltura di precisione a Verona sabato 30 maggio alle ore 10 nella sede dell'Ordine degli Ingegneri in via Santa Teresa 12, dove si inaugura la mostra Dalla Carta al Bit. Passiamo adesso a chiudere la trasmissione con alcune brevi notizie. La Casatella, il formaggio fresco tradizionale della provincia di Treviso, dal 29 al 31 maggio sarà protagonista di Buon Compleanno Casatella Trevigiana DOP. una festa per celebrare i 7 anni dall'ottenimento della denominazione di origine controllata avvenuta nel 2008. Quella che un tempo era la casata, un prodotto contadino veneto fatto in casa, oggi è un prodotto DOP, un formaggio a pasta molle consumato sulle tavole di tutta Italia e che nella sua evoluzione ha mantenuto intatte nel tempo molte delle sue caratteristiche tradizionali. Il programma della Tre Giorni, realizzato dal Consorzio di Tutela, prevede una grande festa di piazza domenica 31 maggio sotto la loggia dei 300 in Piazza dei Signori, appunto a Treviso, ma anche un'iniziativa di spacci aperti sabato 30 maggio con assaggi gratuiti di cheesecake e piatti tipici realizzati dagli esercenti della provincia. Il Touring Club Italiano presenta Io sono il Po, acqua, cibo e territorio, un viaggio che si sviluppa da maggio a ottobre in 4 tappe per raccontare il Po, il principale fiume italiano, a partire dal delta polesano per giungere a Parma, Cremona e poi a Torino. La prima tappa si svolge interamente presso il Museo regionale della bonifica di Cave Dramin, in provincia di Rovigo, e avrà venerdì 29 maggio un prologo scientifico di approfondimento sulle biodiversità ambientali e agroalimentari del delta del Po. Domenica 31 maggio sono previste invece escursioni in motonave, in bicicletta, passeggiate naturalistiche tra le risaie e visite del museo. Tutte le attività sono gratuite e aperte a tutti e si possono già prenotare a Pronto Touring al numero 840 88 8802 o direttamente in loco la domenica mattina. Informazioni sul sito www.touringclub.it. Infine, domani, giovedì 28 maggio, Coldiretti, in collaborazione con l'Accademia Italiana della Vite e del Vino, con l'Associazione Le Malvasie del Mediterraneo e il CRAVIT di Conegliano, organizza un approfondimento sulle vicende storiche che hanno portato alla diffusione di questi vitigni grazie all'ausilio di documentazione inedita fornita dall'Archivio dello Stato di Venezia e i progressi compiuti dalla scienza nella loro identificazione. L'appuntamento è quindi alle ore 9.45 alla Camera di Commercio di Venezia, a San Marco, Calle Larga 22. Con questa notizia è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima settimana, ci potete riascoltare se volete sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.